Benvenute, felicissimo di averve così numerose al secondo incontro di Montagna Analoga. È una rassegna molto ampia sulla montagna. Dall'ultimo incontro, il primo incontro, abbiamo in questo senso definito la rassegna stessa, spaziando con analogie dall'alpinismo del 1900 alla letteratura, dall'arte visiva alla musica, e invece oggi ampliamo ancora di più la prospettiva indagando insieme a Beatrice Citterio le dinamiche dei mega eventi dalla metropoli alle valli, seguendo lo sviluppo rozzo e inelegante delle preparazioni per le Olimpiadi 2026 Milano Cortina. Nonostante la complessità, la dissimulazione e l'inganno insiti in questo tema, Bea riesce a restituire uno sguardo critico di larghissimo respiro, universalmente accessibile per di più, sul discutibile operato imposto dall'alto, che sta trasformando pesantemente diversi tessuti sociali, diversi tessuti, poi li vedremo insieme, della realtà in cui viviamo. Sono trasformazioni di cui Bea riesce ad ottenere, anche tramite la sua ricerca etica e estetica per immagini, un resoconto costantemente aggiornato. È il caso dei cantieri, per esempio, veloci e nascosti da reti arancioni e pubblicità progresso, alcuni violenti, alcuni pesanti, alcuni sleali, alcuni utili, va detto, ma tutti così formalmente immortalati dall'obiettivo fotografico di Bea da essere accessibili all'occhio umano nella loro essenza, tanto che, sfiorando la contraddizione, a volte pensiamo perfino i costruttori stessi potrebbero usare tali immagini per la loro comunicazione. Lascio la parola a Lauri per condurre l'intervista. Ciao, benvenute e benvenuti. Scusate. Dunque, allora, abbiamo appunto pensato di invitare Beatrice, che è una ricercatrice in design per i beni culturali e paesaggistici alla Libera Università di Bolzano, forse per dare anche un taglio un po' più politico questa volta all'incontro sulla rassegna, diciamo, della Montagna Analoga. E quindi quest'oggi Beatrice ci presenterà il suo progetto di Giochi Preziosi, che appunto, come forse avete visto, è un progetto editoriale indipendente che indaga proprio l'impatto delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sul paesaggio, sul territorio coinvolto. E quindi, senza ulteriori indugi, passerei la parola a Beatrice perché inizia a presentarci un po' questo progetto, a raccontarci di cosa si tratta e anche un po' le linee di ricerca che tratta. Buonasera, buon pomeriggio. Dunque, io sono ricercatrice per i beni culturali e paesaggistici all'Università di Bolzano. La prima domanda che mi sono chiesta è che cosa sono i beni culturali e paesaggistici, cioè perché soprattutto non nasce sotto questo nome. Il dottorato nasce sotto il nome di patrimonio culturale, patrimonio paesaggistico, che già c'è un'accezione abbastanza economica del termine. Quindi, partendo da questo, mi sono imbattuta nel tema delle Olimpiadi, stando a Bolzano ma anche stando a Milano, e la domanda che mi sono fatta a posteriori del fatto di aver scelto questo come tema è stato: cosa vuol dire nel 2025 ospitare i giochi olimpici invernali in un territorio socialmente, culturalmente, economicamente, ma soprattutto ecosistemicamente così specifico? Perché le Olimpiadi invernali 2026 sono chiamate Milano Cortina, ma ovviamente non si limitano a questi territori. Infatti le gare si svolgono anche a Bormio, a Livigno, che sono in Alta Valtellina, a Tesoro e Predazzo, che sono in Val di Fiemme, ad Anterselva in Valpusteria e a Cortina d'Ampezzo, ovviamente nella Valle del Cadore, ma ci sono anche degli eventi, ad esempio a Verona, come la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici. E quindi, insomma, la complessità già diventa molto più palpabile. E esattamente quello che mi premeva tanto capire era effettivamente quanto questi giochi impattano il territorio, perché va bene, noi vediamo sempre in televisione i giochi olimpici come manifestazioni sportive di ispirazione, sempre lo sport al primo posto. Quello che ho capito dopo un paio di mesi di ricerca era che le Olimpiadi oramai non sono più tanto un lavoro sportivo quanto un lavoro finanziario economico. E quindi lì diventa comunque molto più complesso, perché a un certo punto tutti gli effetti che si ricadono sul territorio vengono mascherati con questa grande patina dello sport, che io chiamo sport washing, e non l'ho inventato io, però appunto gli effetti sono molto più ampi su tutti i livelli, quindi sociali, culturali, economici e anche soprattutto ambientali. E quindi ho iniziato a girare per questi territori con la mia macchina fotografica e cercando di immortalare un po' quello che vedevo. Quindi al di là ovviamente un po' di bias negativo ce l'avevo già, però cercando di immortalare un po' quello che vedevo, che andava da paesaggi a cantieri a manifestazioni iconografiche di altro tipo pubblicità, slogan, rappresentazioni di quella che adesso noi, soprattutto il governo e le comunicazioni olimpiche, chiamano tradizione, identità varia. E quindi attraverso la fotografia ho fatto un po' un mosaico di quello che mi sembrava un po' la situazione, e da questo ne ho tratto le mie considerazioni, che non so se qualcuno mi segue, però insomma io praticamente faccio invettive quotidiane su questa tematica, sono ossessionata, e quindi insomma è nato il progetto. È nato il primo progetto, che è questo, che è uscito più o meno un anno fa, ed era più un progetto, non dico ingenuo, perché in realtà tutto quello che c'è dentro rimane anche adesso, però rimane vero, però era molto più fotografico, molto più generale, insomma, un po' un'introduzione al tema per chi magari non l'aveva mai trattato, me compresa. E invece il secondo, cioè il primo, che si manifestava un po' in questo modo, qua non si capisce niente, però insomma avevamo delle rappresentazioni un pochino più dirette di cantieri, appunto rappresentazioni pubblicitarie e contraddittori legati alla rappresentazione iconografica dei territori, mentre il secondo ho voluto implementare dei contributi di popolazioni che vivono le valli, quindi focalizzandomi un po' su quello che a me sta molto a cuore, che è il rapporto tra l'urbano e il montano e come queste due cose sono correlate, soprattutto la visione che il montano ha dell'urbano in quanto unità abbastanza invasiva e molto chiave negli investimenti che vengono fatti nei territori di montagna. E quindi è nato il secondo numero, che quindi si comunque declina in una serie di foto, e sono foto nuove, quindi sono tematiche sia inedite che non, però appunto c'è tutta una componente anche di un po' etnografia legata anche ai social media, alle comunicazioni tra le persone, a come effettivamente vengono discussi questi temi sia in presenza che poi online. E come dicevo prima, appunto la tua ricerca ha chiaramente una connotazione anche politica, e quindi se ti va di raccontarci in che senso, cioè non è soltanto un lavoro documentaristico, ecco, ma c'è anche un aspetto politico di critica sociale, se vuoi raccontarci un po' meglio di cosa si tratta. Per me la parte politica del progetto è partita dal fatto che io, essendo di Milano, quando la candidatura è stata assegnata, e essendo vivendo a Bolzano, quando poi ho scoperto tutte queste cose più approfonditamente insite nel tema olimpico, nessuno di quelli che io conoscevo, me compresa, avevano mai sentito interpellare qualcun altro rispetto alla volontà o meno di fare le Olimpiadi o no in questo territorio. Siccome la grande tradizionalità e identità che tanto viene millantata è fatta dalle persone che il territorio lo vivono e non dalle decisioni prese da una manciata di altre persone, mi sembrava quantomeno contraddittorio il fatto che nel dossier, che è il documento di candidatura che le città propongono nel momento in cui si candidano a ospitare le Olimpiadi, venissero promesse tutta una serie di cose, tra cui l'attenzione alle comunità, l'attenzione allo sviluppo comunitario locale, eccetera. Cosa che, senza interpellare la comunità locale, mi sembra difficile portare avanti. E quindi da lì è iniziata tutta una ricerca che si focalizzava anche sul capire come queste comunità non erano state interpellate, in che modo sarebbe potuto succedere, cosa che ci sono degli esempi, appunto, ad esempio in Svizzera oppure in Canada sono stati fatti dei referendum, cosa che però non è obbligatoria, quindi ovviamente in Italia non sono stati fatti, per capire e testare un po' quanto la popolazione fosse a favore dei giochi, o banalmente anche solamente quali fossero i bisogni reali, che dicono tanto di risolvere, ma con 6 miliardi di euro, insomma, tante cose si possono fare ma non sono state fatte. Quindi la parte politica parte da lì, e poi ovviamente si sviluppa in una serie di tante macro tematiche e sottotematiche che poi viviamo quasi ogni giorno, essendo abitanti di questa città e o delle valli interessate e quindi lì poi si sviluppa più a fondo. E da un punto di vista, diciamo, geografico e geopolitico di questa ricerca, quali sono anche gli attori coinvolti, diciamo, nella produzione del territorio e anche proprio nello specifico della tua ricerca, della tua analisi? Allora, macro elementi, c'è il CIO, che è il Comitato Internazionale Olimpico, che ha sede a Losanna e presiede un po' tutte le Olimpiadi, tutto quello che è legato anche ai comitati olimpici locali, nazionali, tira un po' le fila. Ha anche un'agenda bellissima che si chiama Agenda 2020 più 5, che dovrebbe definire i canoni di sostenibilità sociale, culturale, ambientale, eccetera, ma che ovviamente non è vincolante, sicuramente non è legalmente vincolante, quindi sono delle linee guida che i paesi dovrebbero seguire. E qui sarebbe una cosa andare a vedere le premesse contenute nel dossier di candidatura, perché le premesse nel dossier in realtà sono molto positive, al netto del fatto che magari io personalmente penso criticamente che le Olimpiadi forse non abbiano vita nel contesto in cui ci troviamo adesso, però al netto di questo seguivano tutte le linee guida di sostenibilità che venivano richieste dal CIO, quindi macro c'è il CIO, a livello locale c'è il CONI, che è il Comitato invece Italiano Olimpico, e poi ci sono varie entità legate allo sviluppo delle Olimpiadi, che ad esempio Fondazione Milano Cortina, Simico, che è invece la società delle infrastrutture creata ad hoc per fare le infrastrutture delle Olimpiadi, e tutti i governi locali, regionali, municipali. Le premesse contenute nel dossier di candidatura, riguardo soprattutto a chi sono gli stakeholder poi di questo gioco, che gioco non è, ci sono. Ho solo sottolineato le prime parti, però è molto interessante se si legge, perché sembra il documento del paradiso dello sviluppo territoriale, no? E qui ho sottolineato: i giochi invernali più sostenibili e memorabili di sempre, fonte di ispirazione per cambiare la vita delle generazioni future. Sicuramente le cambierà in peggio e in meglio, questo lo vedremo, per porre benefici a lungo termine per lo sport e la società in generale. Poi gli obiettivi, troviamo gioco per tutti, sviluppo sostenibile e cooperazione della macroregione alpina, obiettivo numero 4 approfondito, che sarebbe le Alpi come importante polo sportivo, le Alpi come importante meta sportiva. Quindi le Alpi vengono private di tutto quello che, cioè noi chiamiamo identità, ma poi alla realtà dei luoghi che vengono vissuti da gente che ci vive, molto semplicemente, e quindi insomma queste sono le premesse di un evento che innalza a territorio preponderante Milano e poi Cortina segue e poi tutti gli altri manco vengono nominati, perché sai, insomma, ospitano le Olimpiadi ma chissà, magari non sono anche così importanti, no? E quindi grande stakeholder questi sconosciuti sono le comunità locali, no? Quindi effettivamente chi è che viene impattato da queste scelte? Chi i territori li abita ma non è mai stato interpellato su questi giochi, li voleva o no? E tra l'altro non solo non è stato interpellato, ma non possono partecipare neanche al processo decisionale legato alle opere e ai provvedimenti. Quindi c'è gente che si trova per 2 mesi, che sia Bormio, Livigno, Cortina, Predazzo, eccetera, a essere sigillati in casa o comunque non avere la libertà di movimento che aveva, ma anche di lavoro, perché poi se il lavoro non è inerente alla tematica olimpica, il lavoro viene praticamente sospeso e quindi non possono neanche decidere la loro modalità di vita, sia in quel momento sia il futuro delle decisioni che vengono prese seguendo questo modello di sviluppo tanto agognato dello sci da discesa e dell'urbanistica a Milano, che è paradossalmente intaccato dallo stesso cambiamento climatico che i giochi tendono a fomentare con una certa tipo di, con un certo tipo di sviluppo, no? So se si capisce. Però, insomma, seguiamo un modello di sviluppo basato sulla neve, lo sci da discesa, eccetera, che è rinomatamente intaccato dai cambiamenti climatici in atto, e lo stesso modo in cui noi applichiamo questi giochi fomenta quello stesso movimento che poi causa il cambiamento climatico, che poi va a intaccare i giochi. Per me è una storia molto paradossale, ecco. Un'ipocrisia. Ma appunto, legandomi a questo discorso, ti chiedo se grazie anche alla tua ricerca o in generale il fatto che tu, magari come anche altre voci, hanno affrontato questo questo discorso e quindi hanno cercato di presentarne i punti di vista più critici, questa cosa ha avuto un impatto sulla società di adesso, diciamo nel discorso di Olimpiadi a oggi, pensi che questa ricerca e questo discorso abbiano in qualche modo smosso le acque o in positivo o in negativo, non lo so. Però, allora, il discorso sulle Olimpiadi in Italia purtroppo è partito molto tardi, nel senso che ci vogliono più o meno 7 anni perché dalla candidatura si arrivi ai giochi, quindi da noi sono state assegnate nel 2019 nello silenzio stampa totale, se non nel momento dell'assegnazione, e poi sono passati un paio d'anni fino per la prima manifestazione grande. E questo è dato sia dal fatto che non ci fossero informazioni a riguardo, sia dal fatto che effettivamente non si era mosso niente, cioè non avevano iniziato a fare niente ancora, era un po' in ritardo, lo sono a tuttora. E quindi il discorso, sicuramente da parte mia, quello che ho visto è che ha stimolato riflessioni in tante persone, almeno la mia bolla ovviamente, e le bolle che ho incontrato facendo un po' di divulgazione in questo campo, si sono resi conto che effettivamente guardare dietro il muro delle Olimpiadi porta a trovare delle criticità molto grandi. Che sia cambiato qualcosa a livello strutturale proprio di come vengono portati avanti i giochi? No, una cosa che è successa è che il movimento Open Olympics, che è un movimento lanciato da Libera per il monitoraggio civico delle opere infrastrutturali, che non era fatto a livello istituzionale, quindi l'hanno dovuto fare un gruppo di cittadini indipendenti e varie associazioni, ha portato Simico, che è la società delle infrastrutture, a creare un portale nel loro sito con l'avanzamento dei lavori. Prima volta nella storia che succede, che mi sembra già anche questa una grande ipocrisia, e però ovviamente questo sito andava aggiornato ogni 45 giorni, spoiler, non lo aggiornano, lo aggiornano dopo un tot di giorni in più, e comunque la trasparenza che veniva richiesta dai comitati non era tanto la trasparenza per sapere quando questi lavori fossero stati finiti, perché se guardiamo il portale fa ridere, cioè il 65% delle opere verrà pronta nel 2028, quindi quei giochi non c'entrano niente, sono tutti soldi pubblici e sono opere giustificate con l'urgenza olimpica, quindi quello sicuramente è una cosa che già sapevamo ed era già assurda di per sé, ma la trasparenza riguardava la gestione dei livelli culturali, sociali e ambientali, soprattutto valutazioni ambientali e valutazioni ambientali strategiche, che per i giochi non vengono fatte. Cioè c'è una certa urgenza nell'evento che salta i processi legislativi e porta alla realizzazione di cose senza la necessità di portare avanti delle valutazioni ambientali. E quindi questo è cambiato, penso che sia l'unico grande obiettivo proprio pratico. Dall'altra parte però, con la mia associazione che si chiama Protect Our Winters, abbiamo fatto 2 incontri al fine di capire appunto come portare insieme la gente, come discutere di questi temi a livello locale, uno ad Anterselva, una cortina ad Ampezzo, in cui cercavamo un po' di sperimentare su un format di confronto che potesse essere implementato, ed effettivamente è andata molto bene, perché poi Pau Francia, che è un capitolo sempre nazionale però della Francia, della stessa associazione, sta cercando di implementare, ha già fatto degli incontri con la popolazione, perché loro si beccano invece le Olimpiadi 2030, quindi nell'arco alpino che comunica con Torino, più o meno tra Francia e Torino. Questo penso che sia un passo in avanti, e poi sempre con Pau stiamo cercando di portare avanti una lettera aperta, comunque delle modalità più istituzionali per arrivare a fare advocacy per delle Olimpiadi vagamente più responsabili. Detto ciò, me lo chiedessero, per me le Olimpiadi non sanno da fa, ma non solo le Olimpiadi, cioè non cerco le Olimpiadi in particolare, è proprio una modalità di sovradimensionamento dei rapporti tra territori che sicuramente nel tempo che viviamo non sono troppo adatti. E a livello pratico, anche per dare un po' un contesto a chi magari non lo segue da vicino, quali sono i paesaggi o il paesaggio coinvolto dalle Olimpiadi e diciamo questa cantierizzazione diffusa dei territori, che cosa nella pratica ha realizzato, sia da un punto di vista direi pratico, cioè fisico, architettonico, che appunto anche, come dicevi prima, rispetto ai locali, come poi vivono l'impatto di questa cosa? Allora, partendo da Milano, Milano ha visto il villaggio olimpico di Porta Romana crescere così da un giorno all'altro, obbrobrioso, cioè è oggettivamente brutto, nel senso che sì. Neanche sono io. Il villaggio di Porta Romana di Coima, grande protagonista dell'inchiesta urbanistica di qualche mese fa, che sembra sparita, ma insomma va avanti. E poi c'è il nuovo palazzetto di Santa Giulia, che è un'arena tecnicamente adibita all'hockey per le Olimpiadi. Le piste d'arena dell'hockey certificate, insomma, tra virgolette, ospitano due piste, una per gli atleti e una per le gare. La pista da hockey, il nuovo palazzetto dell'hockey di Santa Giulia ne ha una sola, quindi la seconda andrà costruita temporaneamente fuori, da qualche parte, fuori dall'arena. E poi dopo l'evento olimpico, siccome non è omologato per l'hockey quello palazzetto, perché l'ha costruito Ticket One, verrà sgombrato dall'hockey, tolta tutta la situazione olimpica e adibita a concerti per il resto della sua vita. Investimento privato. Anche il palazzetto, anche il villaggio olimpico è un investimento privato, entrambi però, cavolo, hanno degli extra costi che non c'eravamo previsti e questi invece li paga il pubblico. Questo è Milano. Questo è Milano. Questa è la politica. Ma non solo Milano. Anche la Valtellina. Andando in Valtellina, tra l'altro, la Valtellina ha una serie di opere essenziali per i giochi, ma non essenziali, cioè da una parte essenziali e dall'altra collaterali, quindi alcune inserite nel DCPM delle opere olimpiche, alcune no, però direttamente collegate ai giochi perché giustificate con l'urgenza dei giochi. Alcune di queste ricadono sulla bassa Valtellina, che con le venues olimpiche non c'entra niente, ma era un bellissimo modo per dare via un sacco di lavori. Uno di questi è un cavalcavia di 250 metri per i quali la regione vuole spendere 52 milioni di euro per deviare il traffico 200 metri più in là. E questo succede a Montagna in Valtellina dopo Sondrio. Mentre Bormio e Livigno, anche loro hanno le gare, Bormio si sta costruendo un nuovo bacino per l'innevamento artificiale e un nuovo centro sportivo, un palazzetto che serve come arrivo alla pista olimpica. Questi cantieri vengono sequestrati più o meno ogni 2 settimane, poi vengono sbloccati, poi vengono risequestrati, poi vengono sbloccati, più o meno. E a Livigno invece ci sono 2 nuovi bacini artificiali, un parcheggio interrato da 400 posti, 2 nuovi impianti, cioè sostituiti però insomma rinnovati, e varie ed eventuali. Andando più verso destra c'è Anterselva, in cui è stato ristrutturato tutto il centro di biathlon, un nuovo bacino artificiale che stanno costruendo senza che sia ancora arrivata la risposta del TAR al ricorso che hanno fatto i cittadini. E sempre scendendo più in basso, a Cortina ovviamente ci sono la pista da bob, grande, famosa, e una serie di opere stradali che da Belluno arrivano a Cortina e un sacco di altre cose che però qua non staremo ad approfondire. E poi sempre a Predazzo, Tesero, Predazzo hanno rifatto di nuovo tutti i trampolini olimpici. Tutte queste cose qua nel dossier di candidatura erano state stimate per 1 miliardo di euro, ormai siamo a più di 6 miliardi, quindi insomma non ho un po' sbagliato, e soprattutto erano tutte etichettate come ristrutturazioni, cioè la vincita delle Olimpiadi da parte di Milano Cortina era data dal fatto che era stato promesso l'utilizzo di strutture preesistenti o riqualificate o comunque restituite alla popolazione in maniera più positiva di quanto lo fossero, e che fossero le Olimpiadi green, verdi, e quindi sostenibili, mobilità sostenibile, approccio alle comunità sostenibile, tutto di tutto. Ovviamente non si è realizzato niente e questa è la situazione in cui ci troviamo, quindi la cantierizzazione pervasiva di queste aree durante i giochi magari funzionerà, però già adesso e già l'anno scorso e già probabilmente tra 5 anni, perché i lavori finiranno tra un sacco di tempo, stanno causando dei problemi logistici incredibili alla gente che ci abita. Infatti, molto. Mi leggo anche a questo il tuo ultimo commento per chiederti, siccome ne parli anche nel secondo numero in particolare, anche qual è, cioè come sta andando il conflitto ecologico in questo senso, cioè se c'è effettivamente un riconoscimento del fatto che ci sia un forte danno anche da un punto di vista territoriale e diciamo naturalistico, e se c'è un movimento appunto in questo senso che è forte e viene sentito o meno. Se allora si può dire, diciamo, la modalità del discorso ecologico urbano è molto diversa dal discorso ecologico montano. Quindi, per quello che ho visto io, in città ci si è molto scandalizzati per la questione della pista da bob, giustamente, però la pista da bob ha coperto tutta un'altra serie di screzi incredibili che sono successi contemporaneamente, ma erano totalmente offuscati da questa grande tematica del bob. Il discorso ecologico viene portato avanti da un sacco di associazioni, vedi Mountain Wilderness, PAO, Lega Ambiente, WWF, tanti comitati locali. Però nel discorso poi, se si va a vedere su giornali, testate giornalistiche, magari quelle più conosciute non vengono riportate, ma non viene riportato proprio niente, perché per una questione di sponsor non si può fa. Cioè se Enel mette la pubblicità di Enel in quarta di copertina del giornale, del Corriere, della Repubblica o quel che è, ovviamente nessuno si sognerà mai di pubblicare un articolo critico rispetto ai giochi, no? E questo succede quotidianamente, quindi le inchieste vengono portate avanti da testate indipendenti, vedi la Via Libera che è la rivista di Libera e altre. Questo ovviamente col fatto che le inchieste indipendenti hanno molti meno fondi dei grandi giornali, che comunque già non ne hanno, quindi diventa molto difficile arrivare a un tipo di discussione più ampia. E quindi il discorso ecologico, secondo me, viene fatto in sede altre sul discorso ecologico riguardo però alla società, alla cultura e l'economia dei posti, allora quello un pochino di più, nel senso che la popolazione è effettivamente arrabbiata, soprattutto in Valtellina c'è molto discontento per questa cosa qua, generalmente proprio, ma soprattutto ad esempio per temi come la sanità, l'accessibilità ai trasporti, eccetera, che sono tutte cose che sono passate in quinto livello rispetto al primo, che è appunto il profitto per sempre le stesse persone, e non a caso 3,5 miliardi dei 6 miliardi sono investiti in opere stradali, ma sono opere stradali volte al raggiungimento delle mete, non alla circolazione all'interno dei territori. Quindi doveva venire un mio amico di Sondrio, anzi di Montagna in Valtellina, proprio davanti a Cavalcavia, che poteva testimoniare come venire a Milano, andare via da Milano e comunque subirsi il traffico da Milano a Sondrio e oltre è un incubo, perché tu magari invece di metterci 2 ore ce ne metti 5, capito? Mentre il milanese prende la macchina, va su, fa un po' di coda, che palle, ok, però insomma ci arriva, no, prima o poi. Rispetto a questo, all'interno del secondo numero c'è questa tabella che le Olimpiadi uniscono tutto, ma forse non tanto geograficamente, nel senso che qua ci sono la prima colonna dei numeri, ho mancato di mettere le insegne, però queste sono tutte i tempi di percorrenza in macchina. Quindi in macchina più o meno dipende un po' da se i passi sono aperti, se i passi sono chiusi. Comunque ho ipotizzato che i passi fossero chiusi perché sono percorrenze invernali. Queste qua. Queste seconde qua invece sono con i mezzi pubblici. Ipotizzando un lunedì alle 8 di mattina. Quindi va bene, non magari l'orario più trafficato del mondo, però un orario totalmente normale, cioè se io esco di casa a Milano più o meno trovo un autobus. Per andare da Bormio a Cortina ci vogliono 11 ore con 4 cambi. Per andare qua c'è Cortina d'Ampezzo Anterselva, non risulta, non è vero, Google non lo sa, però c'è un autobus e un treno e poi un autobus di nuovo. Per andare da Predazzo a Bormio ci vogliono più o meno 9 ore con 8 cambi, perché si passa dalla Svizzera. Per andare da Anterselva a Livigno, non so, prendiamo questa, 19 ore e 20 con 10 cambi per 300 km, cosa che io per andare da Milano a Bolzano faccio, sono più o meno 300 e in macchina sono 3 ore. Quindi per quanto riguarda mobilità, possibilità di circolare, promesse olimpiche, forse hanno sbagliato anche qua, no? Forse. Ecco, allora, pensando a questo e ricollegandomi anche a una delle prime cose che hai detto nell'intervento di oggi, che è anche un tema che penso interessa ex alge nelle ricerche che facciamo anche sull'abitare. Secondo te si può percepire, diciamo, le persone percepiscono, diciamo, questo senso di disagio, di smarrimento di fronte al paesaggio che cambia, no? Tu dicevi che sei anche interessata a vedere come le persone reagiscono, cioè da magari qualcuno che vive in città come percepisce invece l'ambiente della montagna e viceversa, e appunto attraverso le tue ricerche come pensi che reagiscano le persone a vedere questo cambiamento e a viverlo anche? Okay. Dunque, secondo me in città si vede molto meno, ma non perché non c'è, ma perché secondo me siamo abituati ai lassi di tempo un po' più ampi, quindi magari io 5 anni fa non mi aspettavo che Milano sarebbe stata così adesso, però allo stesso tempo adesso quando lo vedo dico cavolo com'è cambiata Milano, ma non l'ho visto nell'immediato, cioè è così vasta, comunque così grande, che la scala ovviamente ha una sua funzione nell'immaginario, nella percezione dell'immaginario, mentre nelle valli questo si vede molto, al netto del fatto che magari qualcuno sia pro o contro, cioè non è quello, però effettivamente se ti sbancano la montagna dietro casa lo senti, lo vedi, ma soprattutto lo senti. Cioè, io quando vivevo a Bolzano, cioè avevo elicotteri sopra la testa tutto il giorno, le ruspe che andavano tutto il giorno in una città silenziosa, lo senti molto. Lo senti, è pieno di polvere ovunque, a Bormio stanno scavando questo bacino e fare la strada per salire su, che è una strada che magari fanno tante persone per andare a lavorare, rifugi, eccetera, non si passa perché ci sono le betoniere che si fanno le strade da 2 metri e un po' si incastrano, poi ripartono, poi un po' si incastrano di nuovo. Quindi è una cosa che si sente molto più nel tempo reale, cioè appunto al di là del fatto che siano persone a favore o contro, molto spesso non si esprimono, ma più o meno l'opinione ce l'hanno, non si esprimono per paura di esporsi, che in realtà è molto comprensibile in delle valli così piccole dove i rapporti sono molto più stretti. E in particolare c'è, cioè questo, adesso vado un po' avanti, è un po' uno spoiler, ma vabbè, arrivo da qua, non si può, sì. C'è questo tizio che si chiama Carletto, eccoci, Carletto Stalivigno. E lui si è un po' arrabbiato perché dice cavolo, qua cambia tutto il giorno, però sembra che quando arrivano i turisti vada sempre tutto bene, perché nessuno dice niente, perché la gente vede le cose ma non le dice, non si esprime. E quindi Carletto ha preso la sua vecchia trattoria, che è questa, e ci ha fatto una mostra contro le Olimpiadi. Carletto ha messo, cioè qua non so se si legge, insomma, Olimpiadi sostenibili o disastri naturali, costo zero, impatto zero, ma dove? Poi se zoomiamo ancora di più vediamo Annibale utilizzò gli elefanti e ora avanti tutta con le ruspe, mostra sarà aperta quando vogliamo noi il più spesso possibile, perché ci sono anche delle direttive riguardo all'apertura degli esercizi commerciali durante le Olimpiadi, e poi di fianco vabbè c'è la pubblicità di Corona con scritto This is Livigno con il simbolo olimpico, e questo è l'interno della mostra di Carletto. Quindi abbiamo in risposta a Corona, come si fa? Aiuto. In risposta a Corona che fa This is Livigno, abbiamo Livigno anche questo con tutte le caricature dei politici locali. Poi abbiamo il grande elefante che è la sanità, quindi tutte le cose riguardanti la sanità, il fatto che vengono potenziati degli ospedali locali, messi dei presidi sanitari con grandi esperti di tutte le pratiche mediche, poi dopo le Olimpiadi spariscono, quindi questi vedono dei servizi che non hanno mai avuto in vita loro, e probabilmente Sondrio verrà privato dell'ospedale in questo caso, perché non si sa bene da dove vengono presi questi specialisti. E poi vengono tolti e loro dicono cavolo bello le Olimpiadi, ma magari finanziateci gli ospedali, così io per andare a fare degli esami del sangue non devo andarmene fino a Sondrio o Lecco o Milano o addirittura a Bergamo. Quello che succede è questo, e magari se ho un'emergenza devo sperare che non nevichi, perché se nevica l'elicottero non vola e io mi devo fare 5 ore di macchina per andare in ospedale, secondo me non ci arrivo. E qui sempre altri con appunto Olimpiadi pista da bob, Olimpiadi Torino, e poi qua c'è un incubo. Come si va? C'è la targhetta del comune di Livigno, La conservazione della natura è affidata all'educazione di tutti noi, anche tu devi contribuire. Non danneggiare gli alberi, non distruggere i fiori, non accendere fuochi, non lasciare rifiuti. E questo lui l'ha staccato e se l'è incollato nella trattoria. Quindi niente, per dire, si sente molto, c'è molta inerzia nell'espressione, perché non è come andare in manifestazione a Milano. Cioè, se guardiamo la proporzione, se a Milano c'erano in manifestazione magari 10.000 persone su 2 milioni di abitanti, ovviamente in un territorio in cui gli abitanti sono 4.000 o 5.000, proporzionalmente ci sarà meno partecipazione, no? Infatti, in questo senso, mi è molto piaciuto un pezzetto che c'è alla fine del secondo numero di Giochi Preziosi. Scusate, ora ce la faccio. Che è un pezzo del collettivo Perestroika, si intitola Punti di vista dalla bassa Valtellina. E a un certo punto c'è un pezzo che citerò. A chi servirà davvero tutto questo? Che cosa resterà una volta spenti i riflettori e chi pagherà il conto? Sono domande condivise da molte voci contrarie alla logica dei grandi eventi. E cito questa cosa perché una caratteristica del tuo secondo numero di Giochi Preziosi è che c'è, a parte appunto come dicevi, una presentazione fotografica e testuale della situazione appunto gravosa che sta creando questo processo delle Olimpiadi su Milano Cortina, anche tutta una sezione in cui tu riporti tutti dei commenti di persone che fanno fatica a trovare casa, che appunto si lamentano di cose pratiche, come giustamente hai anche fatto vedere adesso, della vita quotidiana che per via di tutto questo cambiamento anche appunto geografico del luogo hanno un impatto nelle piccolezze della vita delle persone. Sì, le Olimpiadi sono tanto osannate perché viene detto che le Olimpiadi portano lavoro. Ora, se per lavorare dobbiamo costruire fino alla morte, forse c'è un problema nel sistema, ma comunque al di là di questo, la stagionalità che caratterizza le stagioni montane, che sono un po' quella invernale, la più famosa, ma anche quella estiva, si basano su un lavoro di persone che devono vivere da qualche parte e che ovviamente non solo lavorano in stagione, ma magari lavorano nei servizi alla cittadinanza. Quelli, insomma, quelli di base che qua abbiamo anche tanti altri servizi, in valle spesso hai solo quelli di base. E quello che a me ha fatto molta impressione è il fatto che se banalmente andiamo su, io mi sono iscritta a un sacco di gruppi Facebook, se andiamo sul gruppo Facebook di Cerco Casa Bormio, Cerco Casa Cortina, Cerco Casa Predazzo, eccetera, quello che troviamo è una situazione quantomeno critica, ma soprattutto quasi sovrannaturale, perché ci sono persone che cercano lavoro per lavorare nei servizi alla cittadinanza che mancano, non trovano casa e quindi non lavorano in quegli stessi servizi, al di là del fatto che vengono desertificati per ragioni politiche, però proprio nel pratico magari le poste chiudono perché non c'è nessuno che lavora alle poste. Specificatamente c'è questa conversazione che non so se vedete, che è abbastanza incredibile, che c'è un tizio che dice: ciao a tutti, cerco appartamento annuale, ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato, grazie a chi potrà aiutarmi, i contatti in privato, grazie. Li ho anonimati, però insomma uno non l'ho anonimato, chi lo trova vince. Anonymous Panda dice: Gesù, a me dispiace sempre un sacco dire certe cose, ma non li leggete i 1001 post di chi prima di voi ha chiesto casa annuale e non l'ha trovata? Ma perché prima di firmare un contratto non cercate e vi informate sulla possibilità di trovare casa? Ma che senso ha avere un contratto e dormire poi nel bosco? Perché alla meno peggio questo sarà il risultato. Boh, io non capisco, non leggete, non vi informate. Anonymous Doggo. Io direi anche, ma che senso ha tutte quelle case sfitte? È tutto uso turistico, limitando la possibilità a molti lavoratori, professionisti e non, medici, docenti, militari, eccetera, di poter trovare casa e di conseguenza devono rinunciare al posto di lavoro? Beh, la risposta è sempre la solita, che è di dominio pubblico, perché per molti proprietari conviene affittare ai turisti, così ci guadagnano molto di più, poiché la maggior parte affittano anche in nero, a discapito di quei proprietari onesti che pagano le tasse. Questa è la realtà della valle. Andando in Val di Fiemme. Buonasera, mi chiamo e sono alla ricerca di un appartamento in affitto annuale per lavorare a Ziano di Fiemme. Risposta: è come cercare un ago nel pagliaio. Risposta: io sono di Ziano e devo vivere in camper. Detto tutto. E così andiamo avanti in 300 miliardi di conversazioni che qua ho stringato un po', però in cui davvero si nota questa cosa, cioè le Olimpiadi che tanto millantano tradizione, identità, territorio, autenticità, che poi è quello che viene utilizzato in ogni commercializzazione dell'ambiente montano per fini turistici, spingono un modello di sviluppo che alla lunga quello che stanno causando è lo sradicamento totale della popolazione locale e poi la popolazione lavorativa, che a volte non combaciano, ma insomma, per arrivare a un momento in cui intere località sono caratterizzate da solamente, perennemente, popolazione temporanea. Quindi quell'identità di cui si parlava e quel lavoro di cui si parlava, alla fine qual è? Perché mi sembra che alla fine quello che si miri ad avere siano contratti stagionali sempre più scadenti, con gente che si deve fare 2 ore di macchina per andare a lavorare, oppure, come diceva Zaia, cacciarli nel villaggio olimpico di Cortina, che sono delle casette nel bosco, e magari risolvere così la crisi abitativa. La stessa cosa succede a Milano per altre, esatto, per altre dinamiche. Uguale a Milano. Per uguale a Milano, ma tra l'altro questo è un testo che si trova sempre in Giochi Preziosi, che ha scritto Roberta De Zanna, che è consigliera per Cortina Bene Comune a Cortina, che appunto ha intitolato il suo pezzo "Senza proprietà c'è ancora identità". Cioè noi residenti di questo posto, che non abbiamo proprietà, si intende anche proprietà pubblica, proprietà comune, beni comuni, senza quella parte lì della nostra vita, e con il fatto che si sta praticamente privatizzando qualsiasi parte del paese, possiamo ancora dire che noi siamo caratterizzati da un'identità specifica? O che ci stanno forse solo sciacquando, no? E quindi ti chiedo, cara Bea, è giusto secondo te o accettabile che i territori montani vengano ricostruiti diciamo sulla base dei privilegi e delle abitudini consumistiche che caratterizzano i territori di pianura? Sì. No, allora, sì, secondo me c'è una grande distorsione nella prospettiva che si ha dei territori montani in città, e che io ho dovuto decostruirmi molto, è che tutto quello che noi vediamo, noi inteso ipoteticamente come gente che abita in città, se noi nei weekend andiamo in montagna, tutto quello che vediamo è preparato per noi, no? Cioè tutto aperto, tutto bello, tutto sempre funzionante, non sempre tutto, ma un po' di cose sono lì perché c'è qualcuno che ha deciso che quel weekend si fattura, e quindi effettivamente la stagione si basa su quell'introito lì. Non è la conformazione geografica abbastanza ostica montana deve porre dei limiti limitati alla conformazione geografica, orografica o quel che è, cioè non deve porre limiti dal punto di vista dei servizi o di cose che comunque vanno decise a livello politico organizzativo, no? Non è che, cioè, questa cosa romantica di dire vivere in montagna deve essere un compromesso, sai, sacrifici, è vero, ma dipende da quali. Non è che devono essere sacrifici che per andare in ospedale devo farmi 3 ore, cioè dovrebbero essere situazioni in cui i servizi sono accessibili, tanto quanto io voglio andare a farmi l'esame del sangue, giro l'angolo e me li vado a fare, no? Magari non giro l'angolo, è un compromesso magari andare a mezz'ora a distanza da casa, però devo poterlo fare. E quindi il fatto, tutta questa dimensione, che poi c'è anche tutta una questione di sfruttamento delle risorse legate a acqua, vento, eccetera, tutte infrastrutture che risiedono in montagna, che sono a beneficio poi della pianura perché creano energia ad uso comune, a caso Eni, Enel, A2A sono tutti sponsor olimpici, relegano un po' il territorio montano come territorio che subordinato ai bisogni un po' di tutti, no? Perché effettivamente poi, se no invece giriamo questa frittata, risulta che le risorse residenti in montagna sono effettivamente indispensabili per la vita della pianura e viceversa, soprattutto però dalla montagna alla pianura. Quindi vediamo un po' questo tipo di preziosità, che tipo di applicazione ha nel futuro, e cerchiamo di tutelarlo un pochino almeno. Proviamoci, non so, 6 miliardi di euro. Allora, prima di passare la palla a mio caro Giovi, vi cito un pezzettino che mi è piaciuto di Bea, nella speranza di invogliarvi ad acquistare i suoi Giochi Preziosi e a seguire il suo lavoro, proprio per il fatto che, per quanto, cioè, a un certo punto lei dice: quando mi chiedono ma sei contro i giochi, cosa farai quando le Olimpiadi saranno finite, Bea risponde che la sua ricerca non riguarda solo le Olimpiadi in sé, ma le Olimpiadi sono appunto un osservatorio privilegiato, uno strumento critico per leggere il presente. Tramite esse si intrecciano lungo tutto l'arco alpino tematiche di sviluppo, identità, potere e immaginario collettivo. E penso che sia effettivamente così, nel senso che per mia esperienza lavorativa, così come anche penso alle attività che questo stesso spazio porta avanti, penso che ci sia, così come anche la critica che si sta muovendo contro le politiche milanesi sull'abitare, sul coesistere insieme nello spazio, penso che sia un tema molto caldo e molto importante da considerare per il futuro che vogliamo immaginare. E quindi niente, insomma, vi consiglio e vi invito a seguire le ricerche di Bea, che sicuramente ci danno appunto una prospettiva, partendo da questa piccola indagine, in realtà ci danno poi una prospettiva più ampia su questo tema che penso sia importante considerare. Non so se Gio vi vuoi fare altre domande o anche qualcuno dal ne avrei pubblico. Un po', ma posso farne anche solo una e poi magari andare verso la chiusura e aprire le domande al pubblico, il dialogo al pubblico. Cercherei di riportarla un po' fuori dall'osservatorio critico e più sulla montagna e Bea in sé, chiedendole come nasce, qual è il tuo rapporto con la montagna. Allora io ci aggiungo insieme anche con la fotografia. Parto dalla fotografia. No, sì, poi no, sì. Parto da... Vabbè, io ho sempre vissuto la montagna da persona di città, quindi nelle vacanze, nei weekend, con la famiglia, su e giù, bla bla bla. Poi, dopo la mia laurea triennale, ho deciso di andare a studiare a Bolzano, col Covid poi, quindi era tutto un po' diverso, e diciamo che già essere in una regione autonoma, in una provincia autonoma, era particolare, bilingue particolare, un rapporto con il turismo stagionale totalmente assurdo. Ho iniziato a rendermi conto del fatto di cosa fosse la montagna, ho iniziato a interrogarmi, oramai sono 4-5 anni fa, cioè non sono sempre stata così, e interrogarmi su quale fosse effettivamente il rapporto tra Milano, che comunque è una città, ma è una città specifica quando si parla di montagna, e la montagna, quale fosse il mio rapporto, quale fosse il rapporto dei miei amici o della gente che conoscevo. E ho iniziato a fare tutte queste decostruzioni mie teoriche, poi l'ho espressa in un progetto. Quindi rimane un rapporto, secondo me, molto bello, molto conflittuale, ma non perché sia conflittuale lui, ma perché effettivamente praticamente qualsiasi volta che io vado in montagna mi viene da fare foto a cose che però non sono banalmente l'esteticità del paesaggio che vedo, cioè probabilmente non sempre faccio foto quando vado per i fatti miei o comunque quando vedo cose molto belle, è più un rapporto legato alle modifiche, l'impatto che si ha, che poi la montagna vuol dire anche, cioè vorrebbe dire qualsiasi cosa, nel senso io vado in montagna, faccio queste foto, vado in città, faccio queste foto. La montagna non è quello che io penso, una natura incontaminata, o comunque tutte queste frasi che si dicono. Natura incontaminata in Italia non ce ne sono più, cioè tutto quello che vediamo è stato passato in qualche modo, prima o dopo, dall'essere umano, quindi non è tanto quello, è proprio un'attenzione a come l'essere umano impatta il territorio su cui è. Quindi a Milano magari è un po' più caotico, in montagna è più evidente, quindi forse fa un pochino più scalpore anche, però sono cose che succedono ovunque tutti i giorni. Per quanto riguarda la fotografia, io ho iniziato a fare foto oramai 3 anni fa, nella mia tesi di master, non avevo idea di come comunicare quello che volevo comunicare, quindi ho iniziato a farmi dei giri con la macchina fotografica di una mia amica e dopo un anno i miei genitori mi hanno regalato la stessa macchina fotografica perché la mia amica la voleva indietro. E quindi ho iniziato a comunicare con la fotografia, ho trovato questo metodo che è molto analitico, molto speciale secondo me, perché ti permette di fare delle contrapposizioni molto potenti e anche di andare a fondo una volta che hai fatto delle foto, guardartele, siccome faccio tante foto a pubblicità, a vari elementi iconografici del territorio che secondo me sono espressivi, ha la capacità di proprio raccontare quell'iconografia lì. E quindi da lì trarre tutte delle relazioni che sono non soltanto estetiche ma anche legate a sociopolitiche, a geopolitiche, cose varie. e tramite le immagini tra l'altro si creano un sacco di relazioni, nel senso che io la mia attività quotidiana è legare tutta questa ricerca a una comunicazione anche accademica tramite blog, tramite comunicazioni varie, discussioni eccetera. Le immagini fanno, aiutano molto questo processo, perché sono effettivamente degli strumenti di comunicazione molto forti, cosa che sappiamo forse tutti, però queste in particolare secondo me hanno capacità proprio di portare il discorso a dei livelli molto, molto più profondi. E, basta. Grazie. Non so se vogliamo fare un piccolo prima di lasciare spazio al pubblico. No, manca una parte. Vabbè, questi sono gli sponsor. Intorno a voi è allestita una mostra molto interessante che vi porterei a guardare più tardi. Esatto. E libro vivamentissimamente consigliato. Salvatore Settis, che non so se qualcuno conosce, ha scritto Architettura e Democrazia. Ve ne ho riportato un pezzo nel volantino che trovate qua davanti, non so se qualcuno di voi ce l'ha già, in cui discute come effettivamente città e paesaggio incarnano i valori collettivi essenziali per la democrazia e come la pianificazione del territorio abbia poi una responsabilità nel plasmare l'immaginario generale, culturale, sociale, ambientale dei posti in cui si vive e dei diritti come si chiamano? Fondamentali. E quindi vabbè, queste sono mie pagine un po' sgrammaticatamente sottolineate, però le trovate nel volantino, e secondo me a me come lettura ha molto illuminato, come anche descrive alcuni dei fenomeni che magari io ho discusso oggi, però in maniera molto più approfondita, molto più articolata, e come parla appunto anche dello spaesaggio, della modalità di distaccamento, dei cambiamenti del territorio che vivi, eccetera. Esatto, e sarà il nostro libro di lettura per il prossimo passeggio, nel senso che questo weekend che andiamo invece in Val di Mello riprendiamo il libro del Montanalogo che vi avevamo presentato la volta scorsa, mentre Architettura e Democrazia sarà il libro di cui parleremo a fine novembre per il passeggio, insomma il terzo passeggio. L'ultima domenica del mese, al Rifugio esatto. Venini, si può arrivare anche in macchina, non c'è nessuna scusa per non venire. Esatto. E fanno da mangiare. Apposta. Bene. Benissimo. Immagino, e quindi non c'è proprio nessuna scusa, se poi si può passeggiare da lì in poi e parlare di architettura e democrazia, anche perché c'è la vista sul lago, che è un bel esempio. E invece dicembre, molto probabilmente, non è ancora del tutto confermato, ma puntiamo lì, il 21 andremo sulle piramidi di Montevecchia o nei boschi stregati sottostanti, passeggiate abbastanza accessibili sia in macchina che a piedi, molto vicino, e ci fermeremo da Cascina Bagaggera, che fanno dei caprini ottimi. E invece prossima volta mi introduca lei gli prossima ospiti volta, allora, di Montagna Analoga. Torniamo invece più su un tema diciamo di racconto della montagna, e quindi verrà Giovanni Liva a parlarci della, diciamo un po' come aveva fatto Enrico, della sua passione per la montagna, e ci racconterà un po' la sua esperienza personale. E invece l'ultimo incontro, che sarà a dicembre, verrà Stefano Fregonese. Stiamo ancora un po' definendo il tema del suo intervento, perché dobbiamo ancora decidere se sarà più legato a un libro che lui ha scritto, o comunque manterrà, è un altro appassionato di montagna, e quindi manterrà un po' questo filone del racconto più personale della sua esperienza montana. Ci spostiamo sulla filosofia verso dicembre. Sì, esatto. Ok, ultime cose da dire, forse. Passeggio di questo weekend. Passeggio di questo weekend, no, è in Val di Mello, trovate tutte le informazioni sul sito, si può venire sia sabato che domenica o tutte e due per chi vuole farsi una notte a zero gradi in tenda. E proveremo ad arrampicare, avremo un po' di materiale, cose facili. Anche solo provare a appiccicarsi una roccia e scivolare giù ad altezza 2 centimetri, e se no passeggiamo. Devo dire che io non arrampico, quindi fidatevi che si può fare. Anche, ci sono anche le passeggiate, ci sono i rifugi, gli agriturismi, le birrette. Io avrei altre due o tre comunicazioni velocissime, poi tutte le domande sono ben accette, vi porto il microfono personalmente. Ieri ho sbagliato a fare le dosi del tiramisù, quindi siamo pieni di tiramisù e lo stesso vale anche per la pasta al pesto, nel caso foste interessati. Davvero tanto, cioè ce n'è tantissimo, ho fatto una quantità così di crema al mascarpone e vi invito a mangiarlo perché è buono. E invece dopo essersi tirati su un attimo, se volete c'è l'inaugurazione di questa mostra che è fatta da, sono foto di ragazzi e ragazze palestinesi, quindi sul campo, alcune col cellulare ma senza stare a guardare la qualità esatta della fotografia, verso le 19:30-20 ci sapranno dire di più le ragazze e signore che ci hanno aiutato a organizzarla e ce l'hanno proposta. È una mostra diffusa, c'è cioè anche con tante foto, altre foto in giro, in altri posti. E ci sarà da riflettere anche in questa occasione. Sulle mani. Grazie mille, innanzitutto grazie a te, grazie a voi. Da urbanista del Comune di Milano è molto, molto, molto, molto interessante. Ciao Pietro. Come ricerca nel senso che cioè, il valore che ha, secondo me, è inestimabile e tocca un sacco di punti interessantissimi. Vabbè. Mentre parli, avrei un sacco di domande da farti, però la prima che mi viene in mente, che mi è venuta in mente da subito, è la connessione di questi temi con il movimento NOTAV. La risposta, cioè mi chiedo quali siano dopo anni, decenni di scontri anche sul fronte NOTAV, quali siano delle lezioni che possono essere state apprese e dove le due lotte, magari le due risposte a fenomeni così grandi, impattanti, per quanto differenti, ma cioè, così fortemente impattanti, decisi da chi non vive in questi territori. Mi chiedo quali siano magari dei punti, cioè in che maniera magari la tua ricerca abbia poi incontrato il movimento NOTAV e quali sono magari delle lezioni che sono state apprese, magari delle lotte comuni che trovano dei risultati positivi e che spingono a dire continuiamo a partecipare, ad essere presenti quando sembra che non abbia più senso, cioè quando sembra che non abbia più senso lottare, soprattutto mi viene, cioè, per le Olimpiadi non so cosa si possa fare, però il fronte NOTAV è sempre attivo e molto rimane acceso e ci si fa sempre un sacco di domande sul senso di questo movimento. Vabbè, un po' il tuo punto di vista. Grazie. Allora, personalmente non sono parte del movimento NOTAV, però conosco bene la diatriba dai campeggi estivi, eccetera. Secondo me ci sono delle differenze molto marcate, derivate dal fatto che non c'è stata tanta contaminazione tra le due cose, nel senso che c'era comunque una partecipazione NOTAV alle manifestazioni, ma il discorso non è mai stato collegato in maniera diretta. E la differenza secondo me più grande è che il movimento NOTAV ha costruito nel tempo una cosa gigantesca. Le Olimpiadi hanno avuto pochissimo tempo e soprattutto non erano tanto localizzate, cioè non c'era un movimento centrale forte che unisse poi a sé anche geograficamente persone che venivano da altri posti, cosa che per il NOTAV invece è molto forte, ma si sono sviluppate in comitati molto frammentati, molto felici di collaborare in caso in cui succedesse, però soprattutto il legame tra città e montagna è stato molto, molto debole, mentre invece la città di Torino con il movimento NOTAV eccetera, il legame è molto molto forte, molto partecipato, sicuramente c'è stato più tempo per costruirlo, la causa forse era una, quindi faceva molto più capo a una ha delle motivazioni che magari potevano essere rimandate a un sentimento più forte. Per le Olimpiadi c'è stata molta frammentarietà, quindi per quanto si volesse creare un movimento congiunto, la città, i movimenti di città hanno un po' fallito nel comprendere, secondo me, quelli montani, perché le caratteristiche sono molto diverse, prima di tutto politicamente, cioè tutta la Valtellina vota Lega praticamente, cioè bisogna capire che quando si va a fare una mobilitazione, ad esempio in un posto come la Valtellina, vanno fatte delle differenze. Se io esco da una manifestazione con le bandiere della Palestina, le bandiere transfemme, eccetera, mi devo rendere conto che, per quanto per me e anche per me personalmente quella sia una lotta giusta, per quella valle lì non lo è, perché distoglie l'attenzione da il punto centrale di quella cosa lì. Quindi questo è stato uno dei problemi. E, per il resto, probabilmente il fatto che siano nati tutti questi movimenti, magari presto, però che siano entrati in contatto tardi, non è che ha fatto danni, però non ha portato a un risultato forte. In realtà il risultato più forte che era stato ottenuto era il fatto che la pista da bob non venisse fatta. È bastata la comunicazione di 5 politici per mettere insieme il fatto che poi dopo 3 mesi è partita comunque. Quindi lì viene un po' da pensare che sicuramente una mobilitazione più grande magari avrebbe fatto qualcosa di diverso, però per la conformazione proprio geografica dei luoghi penso che sia stato anche molto più difficile. Paradossalmente loro fondazione dice che questa frammentarietà aiuta la sostenibilità dei giochi, allo stesso tempo mina tutti i tentativi di fare qualcosa a riguardo. Non so se ho risposto. È mia madre. Casa non mi risponde a niente, chiedo qua. Ma io volevo sapere se funziona comunicazioni tipo questa, oppure le altre tante cose che hai e avete fatto, vengono in qualche modo, magari anche non ufficialmente, ma invitati le persone, i politici, le persone poi direttamente interessate, oppure sono invitati a informarsi da soli per sapere se c'è qualcosa che potrebbe quantomeno mettere alla prova, cioè offrire un challenge alla propria, io la chiamo coscienza, ma forse è fine esagerato, diciamo, alla propria riflessione, perché il contrappunto nella riflessione è sempre utile. Poi uno può essere, come ultimamente si usa, può essere molto, diciamo, da fazione, cioè ultimamente c'è sta moda che uno è da una parte o dall'altra, ma in realtà la riflessione costruttiva è utile sempre nel confronto. Quindi vengono invitate le persone, o sono, come lei che è un urbanista per esempio, già, o vengono spontaneamente perché si informano e basta? Allora, dal punto di vista di questi incontri qua che abbiamo portato avanti con Pau, noi abbiamo invitato tutte le parti. Abbiamo invitato pro, contro, destra, sinistra, tutto quello che c'è in mezzo, e tutti quelli che hanno risposto erano sempre solo contro. Quindi a priori la popolazione non è invitata, nel senso che non ci sono situazioni collegiali in cui si può parlare di queste tematiche pre-decisione. Nel momento del confronto, anche se viene richiesto a gran voce dalla popolazione, vengono negati i momenti di incontro e di confronto. Sia a Cortina che a Bormio sono stati negati dei referendum che erano stati richiesti dalla popolazione, quindi già comunque un segnale abbastanza negativo. Quando noi abbiamo organizzato questi incontri, nessuna della parte pro, tra virgolette, che poi è la parte organizzatrice, si è presentata. Un segnale molto più forte, secondo noi, del fatto che se si fossero presentati a esporre la propria parte. In entrambi i casi, ad esempio a Cortina, abbiamo beccato un dirigente di fondazione che passava di lì, l'abbiamo braccato, non poteva tanto togliersi perché poi avevamo un riscontro stampa, e ha detto 3 cose sbagliate e se n'è andato. Quindi, e c'erano lì tutti i consiglieri, quindi comunque persone che sapevano quello di cui lui stava parlando, e loro, però in entrambi i casi, questo signore qua di fondazione a Cortina e il sindaco di Rasuna Anterselva, che ha presenziato perché c'erano le elezioni dopo 2 mesi, sempre a Rasuna Anterselva, La popolazione, che sono stati fatti questi nel 2000, uno nel 2024, uno nel 2025, la popolazione ha detto che era stato il primo incontro che loro avevano avuto con l'autorità decisionale, cioè che sia fondazione, che siano i comuni, che siano i sindaci, che siano quel che è. Non avevano mai avuto un rapporto, perché nonostante lo chiedessero più volte, mail, PEC, tutte cose, non era mai stato concesso. Quindi questo è il rapporto che c'è tra la popolazione grande coinvolta nei giochi e le amministrazioni, che poi sicuramente essere il sindaco di Cortina è un incubo in questo momento, come essere il sindaco di Bormio lo è, come probabilmente essere il sindaco di Milano, forse lui sta bene, però oggettivamente quello che ne esce è che non si sa bene per quali giri politici, però nessuno ha mai richiesto niente a nessuno. E nel momento in cui vengono interpellati non si presentano, non rispondono. Quindi questo secondo me è molto esplicativo di questo, cioè la coscienza non c'entra più tanto, no? Ciao, grazie mille innanzitutto. E io ti vorrei chiedere se ti sei occupata nello specifico o te ne occuperai di quella slide che hai fatto vedere prima, cioè le sponsorizzazioni, in particolare quelle più critiche, e penso ad Eni, perché insomma si fa petrolio e gas e poi si parla di sostenibilità, e poi di Leonardo, perché i giochi olimpici vengono sempre un po' venduti come un momento in cui i paesi si ritrovano in un clima, no, di pace e di amicizia. Quindi mi interessa sapere se tu, insomma, hai riflettuto un po' su questo e anche se hai riscontrato che c'è sensibilità rispetto a questo tema, che è un po' più astratto perché non ha a che fare con i territori, però è altrettanto problematico, se c'è sensibilità da parte dei cittadini o comitati o associazioni che hai avuto modo di incontrare per la tua ricerca. E in questo ti chiedo anche se uscirà un Giochi Preziosi numero 3. Grazie mille. Grazie. Numero 3 ci pensiamo. No, uscirà, però non so bene quando. Sicuramente vorrei fare un recap post giochi, perché comunque magari uscirà nello stesso momento dell'anno, ma l'anno prossimo, un po' tenendo un po' al ritmo. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, c'è un'invettiva lunga una pagina nell'ultima parte del foglietto di Giochi Preziosi, e si riguarda sia gli sponsor worldwide, quindi quelli che sponsorizzano sempre le Olimpiadi, vedi Coca-Cola, sia quelli premium di questa edizione qua, che sono Enel, Eni, Poste Italiane, Gruppo Feste, Salomon, Leonardo e Stellantis, sia varie partenariati che alcuni brand fanno con le località, ad esempio Audi è partner ufficiale di Cortina d'Ampezzo, e tutte le implicazioni che questa cosa ha sul territorio, soprattutto quando grandi slogan promettono un'attenzione al territorio specifica, quando Audi ad esempio propone driving experience in panorami mozzafiato, dove tu puoi sgommare in giro con la neve, è incredibile. E le implicazioni, domani tra l'altro nello specifico uscirà un articolo sempre sul blog, che poi se qualcuno mi segue troverete, in cui parlo proprio di questo, cioè faccio un po' un affondo sulla parte delle sponsorizzazioni. Penso che comunque la ricerca di questo andrà avanti, perché a primo impatto ci sono tante criticità. A nominarne alcune, Leonardo è abbastanza ovvia, Stellantis, idem, tutto il settore dell'automotive con Audi, eccetera, che sono uno dei principali problemi delle zone montane in overturismo. In contrapposizione Gruppo FS, che dovrebbe promettere tante cose essendo sponsor olimpico, ma in realtà probabilmente potenzierà i collegamenti per l'evento olimpico e poi torneranno come prima. E Poste Italiane, grande, secondo me, tasto dolente, perché per quanto prometta di, appunto, se non so se andate negli sportelli postali, c'è scritto roba incredibile con le Olimpiadi, anche se lunga ad esempio, cioè c'è tutte queste grandi sponsorizzazioni. Poste Italiane negli ultimi anni sta desertificando completamente i servizi in zone montane, anche non montane, zone comunque non centrali, apparentemente non nevralgiche, apparentemente non importanti evidentemente, sia perché sta andando contro una privatizzazione molto galoppante, ma al di là di quello mi sembra quantomeno critico non vorrei sempre dire critico, ma insomma, che sia sponsor olimpico, quando è una delle cose a livello di servizi alla cittadinanza che sta andando a mancare sempre di più. E Eni, l'abbiamo detto, paradossalmente direttamente collegata a tutte le questioni climatiche che riguardano i territori montani due volte più di quelli, di pianura. Enel, nello specifico, insieme a A2A, anche A2A è sponsor olimpico, è coinvolta in tutta la questione delle concessioni dell'idroelettrico, che poi si traduce in uno sfruttamento della risorsa montana davvero eccessiva, ma soprattutto non sanzionata, nel senso che si utilizzano delle concessioni vecchie di quasi, non so, 50-60 anni, ma comunque quando all'inizio andava incentivato l'idroelettrico e quindi le concessioni avevano dei canoni molto bassi, e adesso continuano a lavorare senza la riassegnazione e quindi fanno dei profitti fantasmagorici sullo sfruttamento di una risorsa che dovrebbe essere bene comune. E ad esempio, non so, nella Valle del Cadore io ho tutto un progetto da lato che sono foto di dighe, e sono tutta una rete di dighe del Cadore che attraversa tutta la Valle del Cadore, che attraversano anche i trasporti che portano a Cortina per le Olimpiadi e i relativi lavori infrastrutturali stradali, e quello ha un impatto sulla risorsa idrica e sulla risorsa idrica che poi ha tutta un'implicazione nell'utilizzo della neve artificiale, nei laghi artificiali eccetera, che io trovo molto critica. Questo quando io ho pubblicato il primo articolo sugli sponsor, la maggior parte della gente con cui parlavo non lo sapeva che questi fossero gli sponsor olimpici, neanche io lo sapevo finché non l'ho scoperto, e ovviamente però cioè, non lo sapevo dall'inizio, diciamo, ecco. E inveivo contro Poste Italiane, contro FS, ma senza sapere che fossero poi diventati ufficiali sponsor olimpici, perché poi alcuni sono diventati dopo. Mi preme un'ultima cosa, raccontare che Esselunga è anche partner olimpico. Ero a Bolzano qualche giorno fa e non so se qualcuno ha visto il mio ultimo post, che era una bella invettiva, e ero al panettiere. Esselunga non c'è a Bolzano. Io pensavo che fosse un po' come Esselunga in Toscana, che non ci può arrivare perché c'è la COP, invece no, ci può arrivare. E quando ero dal panettiere, c'era il panettiere che chiedeva a un cliente: ma tu sai che cos'è questa Esselunga, insomma, chi è il proprietario? Ah no, io non lo so. Ah, dicono che sarà il punto supermercato più grande della città. Ora, Bolzano c'ha 100.000 abitanti, c'è già la COP, c'è Aldi, ci sono Eurospar, The Spar, eccetera, però il punto comune di tutte queste cose è che la domenica è sacra. E quando lui ha detto questo negozio sarà aperto 363 giorni all'anno, erano basiti, ho detto ma cosa vuol dire? E questo si tramutava nel progetto molto più ampio che si chiama Walter Park, che è un nuovo centro commerciale a Bolzano che ha aperto proprio quel giorno lì, in cui c'è tipo, non so, Starbucks, Esselunga, tutte queste cose qua. Ma per dire che la scala degli investimenti è totalmente sbilanciata rispetto alla realtà che si vive lì, che noi chiamiamo identità, tradizione, ma in realtà è vita quotidiana di gente che fa le sue cose, no? Quindi sì, sponsor mi interessano molto. Prima anche hai citato diverse sigle o altri comitati, adesso hai citato un blog di cui a me è sfuggito assolutamente, e quindi vorrei, magari anche per interesse altrui, se vuoi dirci in che contesto si inserisce il tuo osservatorio, se ci sono altri che hanno fatto ricerche simili che vuoi suggerirci, oppure dove si pubblicano articoli simili che possiamo andare a leggere, tramite che canali si sta promuovendo questa pratica dell'osservazione critica. No, mi sono dimenticata di dire una cosa, poi ci arrivo. Riguarda gli sponsor, Leonardo a me faceva impressione per ovvi motivi, anche ad esempio Enel, che ha tantissime collaborazioni con Israele, laboratori incredibili di cui va molto fiera. Israele è stato ammesso ai giochi senza riserve, come, non so se vi ricordate, Russia e Bielorussia avevano avuto delle sanzioni in questo caso, e perché dicono che Israele rispetta al 100% la carta olimpica. Cosa dice la carta olimpica? La carta olimpica dice Olympics seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for the international recognized human rights and universal fundamental ethical principles within the remit of the Olympic movement. Quindi, per chiudere il discorso, quantomeno critico. Della mia ricerca. La mia ricerca, vabbè, è un dottorato, quindi devo produrre cose accademiche. Poi sui miei social, su Instagram sono abbastanza attiva nella pubblicazione delle foto, che non è un progetto segreto, nel senso che ogni volta che io produco butto fuori con relativi testi, a volte più leggeri, a volte un pochino più pesanti. C'è un blog che tengo su una rivista online del Sud Tirol che si chiama France Magazine, che, il cui motto è More than Apple and Cows, cioè il loro obiettivo nella vita è comunicare il territorio al di là delle mele e delle mucche, delle vacche in realtà, che si chiamerebbero, che la comunicazione mainstream, cioè IDM, che è il centro comunicativo del Sud Tirol, spamma ovunque. Non so se avete visto le pubblicità del Sud Tirol, cioè sono proprio... E quindi lì ho un blog, oramai siamo alla terza puntata che esce domani, non a caso. E poi c'è Giochi Preziosi, che comunque diffondo in varie maniere, in vari modi, soprattutto in presentazioni come questa. L'anno scorso ho presentato tante volte per Giochi Preziosi 1, adesso dovrò partire per un po', ma insomma poi a gennaio ce n'è un'altra a Siena, probabilmente sempre in collegamento al movimento delle Apuane. E che altro? PAU è un'associazione, si chiama Protect Our Winters, è in inglese, lo so. Però così è un'organizzazione ombrello che nasce in America, poi arriva in Europa, c'è PAU Europe e poi c'è PAU per ogni, non tutti, ma molti dei paesi europei. Collaboriamo per mobilità sostenibile, lotta al cambiamento climatico, mobilitazione della gente che va in montagna per farsi portatrice di questo messaggio. E in questo caso stiamo lavorando sulle Olimpiadi, c'è un progetto molto grande, esce piano piano quando i tempi lo permettono e quando i tempi sono maturi. Per adesso comunque, se seguite anche PAU sui social, POW, si comunica tanto. Il CIO è il Comitato Insostenibili Olimpiadi, io ne faccio parte ma in realtà poco, perché non lo frequento praticamente mai, perché non sono praticamente mai qua, quindi sono in contatto con loro, ma vi invito ad andare se avete voglia. Si ritrovano a Piano Terra, che è isola più o meno, via Confalonieri 3, e tanti altri comitati, che però tra l'altro non ci sono solamente i comitati olimpici, c'è la causa olimpica, è portata avanti dai comitati olimpici, poi ci sono i comitati che magari portano avanti battaglie da anni contro nuovi impianti, contro nuove infrastrutture totalmente nocive per il territorio, una tra tutte Monte San Primo, che è stata stralciata l'altro ieri dalla regione. Ce ne sono tanti. Secondo me una volta che se ne segue uno, poi si inizia a capire la geografia dei movimenti, perché poi devi anche capire dove puoi mettere le forze, cosa ti interessa di più. Ha totalmente senso che uno si interessi di più su territori che stanno più a cuore, non è che bisogna partecipare sempre a tutto, però insomma secondo me un primo passo è uscire un attimo dall'astrazione della narrazione mainstream e entrare un po' nella realtà dei fatti, che... cioè, ovviamente io mi sono ossessionata per 2 anni, però insomma è molto più facile secondo me da approcciare se si fa piano piano, comunque quotidianamente in qualche modo. Grazie Bea della presentazione. E, mi è venuto in mente prima quando parlavi di Anterselva e del sindaco che è venuto alla presentazione, se non sbaglio, di PAU, a un incontro che avete fatto, perché c'erano le elezioni. E mi chiedevo se in questi anni che hai girato e hai frequentato questi posti, se è cambiato qualcosa, cioè se ci sono state delle elezioni, immagino quella almeno, se sono cambiati i sindaci, se ha vinto magari qualcuno che... in qualche modo era l'opposizione, e in generale se la fetta di popolazione che di più chiede, diciamo, conto delle azioni politici sia aumentata, sia diminuita, sia rimasta uguale, insomma, com'è lo stato, perché immagino che vabbè, per forza ci sarà una parte della popolazione anche locale che gli va benissimo e magari anche felice, e invece la parte che più si oppone, come appunto si è cresciuta, si è diminuita e come sta. Allora, c'è tanta gente che è pro, c'è tanta gente che è pro e contro, ma la gente contro sul serio non si esprime, nel senso che al di là di Milano ci sono dei comuni, ad esempio Anterselva, in cui il sindaco è stato rieletto l'anno scorso, quest'anno, e, perché viene sempre rieletto lui, perché poi ci sono delle regole diverse di rielezione per comuni con popolazione minore di un certo tipo di numero, bla bla bla. Lui è stato rieletto. Il dissenso non naviga praticamente mai su livelli di elezione, cioè questa è una cosa molto forte, nel senso che sicuramente magari il sindaco di Cortina non verrà rieletto, ma perché lì l'hanno fatta grossa, però è molto difficile che si ottenga un dissenso così importante da causare quella roba lì. A volte i comuni vanno in tilt, arriva commissario e finisce così temporaneamente, però non ci sono state ancora elezioni in altri posti. A Bormio c'è sempre la stessa, a Livigno c'è sempre lo stesso, a Cortina c'è sempre lo stesso, sì, insomma, non ci sono, anche i governatori della regione non sono cambiati, cioè non ci sono ancora stati. Zaia, ad esempio, per la regione Veneto andrà a elezioni questo novembre, quindi poi quello vediamo, però per ora non c'è stato questo grande shift. E quello che mi diceva appunto Carletto della mostra di Livigno era che lui sa benissimo che un sacco di gente ad esempio è contro, magari per una tematica unica, magari solo per la sanità, no? Ma che nessuno mai lo porterà sul tavolo, cioè su 6.000 abitanti magari lui dice secondo me a un incontro parteciperanno massimo in 50, cioè non è una cosa che sono abituati a fare, perché appena lo fai vieni accusato di remare contro l'unico modello economico che porta soldi, in posti che con quella verticalità turistica lì sono molto abituati a fare soldi da queste cose, no? E quindi così tanto, e comunque è un modello che non è che dura da sempre, cioè è un modello del dopoguerra più o meno, quindi c'è ampio respiro per poterlo rimmaginare, con difficoltà, non è che ho la soluzione, però c'è tanto molta questa convinzione che sia l'unica cosa possibile, che sia l'unico modo di fare le cose, perché oramai si sono abituati che si costruisce ogni anno, e se non si costruisce ogni anno quelle sono carenza di posti di lavoro anche banalmente, solo che non è che puoi costruire per sempre, ma questo in città come in montagna, cioè non è che la montagna è speciale, solo che in città queste cose si perdono un po', no? Ma se vedi quanto hanno costruito a Milano, cioè ce n'è. C'è ancora qualche minuto, se volete, se avete qualche domanda. Ah, io vi dico, ci sono un po' di persone che si sono prenotate ai Giochi Preziosi, che sono tutti di là, adesso mi metto là e ve li distribuisco. Ci sono più o meno una decina di copie libere ancora. E se non la prendete oggi potete anche scrivermi, c'è un format sul mio Instagram, c'è un Google Drive che io controllo ogni giorno spasmodicamente. E quindi potete anche pensarci e dirlo dopo, insomma. Se volete il PDF ve lo mando, cioè queste cose qua. Tu ce l'hai già? Okay. Senti, tanto c'è la voce da trombone. Ah. No, che quando lei si è laureata, la sua tesi aveva già questo tema più o meno, no? E un professore, più vicino, un professore con un nome straniero, erano tutti un po' stranieri, parlavano lingue straniere, comunque ha detto che loro si auguravano che Beatrice avrebbe portato avanti questa tematica perché lei era di fuori, cioè no, era a Bolzano la tesi, no? La laurea, perché era da fuori, perché le persone all'interno del territorio non avrebbero mai avuto la forza o il coraggio, non so come chiamarlo, di portare avanti un tema che invece dall'esterno si riesce a guardare in modo oggettivo e soprattutto senza implicazioni personali. Io so che alla fine ho detto, ma speriamo che non me la gambizzino. anche la mia non è una domanda, ma va a seguito di questo, un po' anche risposta. Io sono una persona che viene dalla città e lavora in montagna attualmente, e quindi ho un rapporto molto diretto con le persone che lavorano, tra l'altro, in una zona molto vicina a Cortina. Per loro le Olimpiadi non è un, cioè non si lo domandano, perché per loro è normale che vengano fatti investimenti continui per, ad esempio, creare impianti di risalita in posti dove non nevica più. Per loro è normale che ci sia una monocultura del turismo e le famiglie dipendono tantissimo dal turismo in tutte le sfumature. Quindi queste Olimpiadi, quando Bea è venuta a presentare da me in montagna, le persone del territorio sono state zero. Due ragazzi che abitano lì ma vengono da fuori. Quindi ovviamente cioè le uniche persone appunto che hanno la residenza lì ad oggi erano due, ma tutti e due vengono da Padova, quindi comunque hanno vissuto la città, vedono la montagna appunto, hanno deciso di viverci con tutte le difficoltà che Bea ha citato sui servizi e via dicendo. Quando mi è capitato di parlare, perché poi il materiale di Beatrice è rimasto esposto in rifugio, quindi tante persone mi hanno chiesto, le persone locali che comunque frequentano non avevano un parere, l'unica cosa che hanno saputo dirmi è stato: sulla pista da Bob ci saranno 9 persone che lavoreranno a tempo indeterminato. Fine, cioè l'unico commento. Il sindaco del paese lì ha fatto un'invettiva contro le Poste Italiane, appunto perché gli uffici postali chiudono, ma non aveva un parere critico sul fatto che, ad esempio, a settembre noi siamo rimasti senza connessione di alcun tipo per 2 settimane perché hanno attaccato degli sparaneve, hanno fatto dei test per l'inverno e sono saltati i ripetitori di un'intera valle. E nessuno per 2 settimane si è posto il problema. Quindi diciamo che appunto venire da fuori a volte permette di avere un occhio molto più critico. E infatti io sponsorizzo al 100% il lavoro di Bea e capisco però anche che sia un lavoro molto difficile, che abbia un creare un vero impatto, un vero riscontro è molto difficile, appunto perché sono in primis le persone che abitano quei territori che a volte non solo non si espongono, ma magari non si interrogano neanche, perché è anni e anni che il loro territorio è sfruttato per il turismo di fatto, e le Olimpiadi alla fine sono, appunto, tutti dicono, porteranno più turismo in ambienti comunque saturi. Comunque Rifugio Sasso Bianco, se volete cercarlo, è un posto bellissimo davanti al Civetta, incredibile. Ciao. Legandomi un po' magari a questo discorso, volevo sapere se da tua visibilità qual è un po', cioè, non solo legato magari alle Olimpiadi, però in generale appunto al modello di sfruttamento della montagna, se vedi un ruolo dei giovani, cioè tutte queste persone che non si fanno domande così, sono per esempio persone che sono lì da 60 anni e che quindi alla fine magari, che ne so, hanno appunto anche il discorso che vedevamo prima rispetto all'abitare, hanno 5 case di proprietà, le affittano nella stagione invernale e va bene così. Oppure ci sono, cioè, dei giovani, cioè i giovani stanno in questi posti, accettano questi funzionamenti, oppure scappano tutti in città o in pianura, comunque in centri più grossi, scendendo un po' dalle valli. Non so se è una domanda fatta bene, però. Allora, l'andamento demografico non lo so, cioè proprio scientificamente i dati non li so. Quello che so è che i portatori del titolo dei comitati, cioè chi porta avanti i comitati in maniera più forte, sono in realtà la maggior parte over 40, sempre. Secondo me, sia perché magari c'è più tempo, sia perché magari c'è più scorza, sia perché secondo me hanno visto un po' più l'evoluzione delle cose, no? Banalmente fanno magari politica da più tempo, così. Però, ad esempio, in Valtellina le persone con cui io mi interfaccio sono miei coetanei, cioè sono persone che hanno collettivi, portano avanti battaglie loro anche extra olimpiadi molto forti, che sono un po' i punti di riferimento delle valli per questi tipi di tematiche. C'è Pista da Bo? Pista da Bo, ad esempio, era questo gruppo informale di ragazzi che si era costituito a Cortina per criticare la pista da Bob, ma poi per traslarlo in una serie di livelli di lettura oltre la pista da Bob, quindi sulla loro capacità di rimanere a vivere nel loro paese, cosa che ormai è impossibile, quindi c'è tutta una situazione anche psicologica legata a questo. È molto vario. Quello, ovviamente, io avendo una piattaforma con i social, con Instagram, le persone con cui parlo sono molto varie di età. Ovviamente i miei coetanei, i miei amici, le persone con cui entro in contatto, la maggior parte sono giovani, ma per una questione di età. Però ci sono tante, ad esempio, tante guide che magari hanno 50-60 anni, che sono molto più sensibili. In generale, la gente che frequenta la montagna in maniera più, tra virgolette, sportiva, anche se non è sempre questo il caso, sono le persone un pochino più sensibili, perché magari hanno una concezione dell'ambiente un pochino diversa. In montagna, dico, in città il movimento è molto giovane. È molto giovane perché poi si fa portatore di una serie di problemi generazionali e multilivello, l'abitare, eccetera, che sono molto, molto propri dell'età di studenti, dell'età dei primi lavoratori, eccetera. Però sì, nelle valli è molto vario. Anzi, cioè io ho tanti contatti giovani, così come alle riunioni di valle ho sempre visto persone over 40, over 50, cioè la presenza giovane su quello è molto più scarna, però ci sono. Non saprei dirti, ti direi 50-50. Ragazzi, complimenti a tutti. Io quasi quasi farei una pausa prima dell'inaugurazione, quindi la chiuderei. Grazie Bea. Grazie a voi. Grazie Lauri. E grazie a tutti.